ad alta voce. Fabrizio Gifuni legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Un padre, il cui impiego particolare era ad assistere i moribondi e che aveva spesso avuto a rendere questo servizio sulla strada, fu chiamato subito al luogo del combattimento. Tornato, pochi minuti dopo, entrò nell'infermeria e, avvicinatosi al letto dove Lodovico giaceva, «Consolatevi», gli disse, «almeno è morto bene. È mai incaricato di chiedere il vostro perdono e di portarvi il suo». Questa parola fece rinvenire affatto il povero Lodovico e gli risvegliò più vivamente, più distintamente i sentimenti che erano confusi e affollati nel suo animo. Dolore dell'amico, sgomento e rimorso del colpo che gli era uscito di mano e nello stesso tempo un'angosciosa compassione dell'uomo che aveva ucciso. E l'altro? Domandò ansiosamente al frate. L'altro era aspirato quando io arrivai. Frattanto, gli accessi e i contorni del convento formicolavano di popol curioso, ma giunta la sbirraglia fece smaltir la folla e si postò a una certa distanza dalla porta, in modo però che nessuno potesse uscirne inosservato. Un fratello del morto, due suoi cugini e un vecchio zio vennero pure, armati da capo a piedi, con grande accompagnamento di bravi, e si misero a far la ronda intorno, guardando con aria e con atti di dispetto minaccioso quei curiosi che non osavano dire «gli sta bene», ma l'avevano scritto in viso. Appena Lodovico ebbe potuto raccogliere i suoi pensieri, chiamato un frate confessore, lo pregò che cercasse della vedova di Cristoforo, le chiedesse in suo nome perdono d'essere stato lui la cagione, quantunque ben certo involontaria, di quella desolazione, e nello stesso tempo l'assicurasse che egli prendeva la famiglia sopra di sé. Riflettendo quindi a casi suoi, sentì rinascere più che mai vivo e serio quel pensiero di farsi frate che altre volte gli era passato per la mente. Gli parve che Dio medesimo l'avesse messo sulla strada e datogli un segno del suo volere, facendolo capitare in un convento in quella congiuntura. E il partito fu preso. Fece chiamare il guardiano e gli manifestò il suo desiderio. Ne ebbe in risposta che bisognava guardarsi dalle risoluzioni precipitate, ma che se persisteva non sarebbe rifiutato. Allora, fatto venire un notaro, dettò una donazione di tutto ciò che gli rimaneva, che era tuttavia un bel patrimonio, alla famiglia di Cristoforo. Una somma alla vedova, come se le costituisse una contraddote, e il resto a 8 figliuoli che Cristoforo aveva lasciati. La risoluzione di Lodovico veniva molto a proposito per i suoi ospiti, i quali, per cagion sua, erano in un bell'intrigo. Rimandarlo dal convento ed esporlo così alla giustizia, cioè alla vendetta dei suoi nemici, non era partito da metter neppure in consulta. Sarebbe stato lo stesso che rinunziare ai propri privilegi, screditare il convento presso il popolo, attirarsi il biasimo di tutti i cappuccini dell'universo per aver lasciato violare il diritto di tutti, concitarsi contro tutte le autorità ecclesiastiche, le quali si consideravano come tutrici di questo diritto. Dall'altra parte, la famiglia dell'ucciso, potente assai, e per sé e per le sue aderenze, s'era messa al punto di voler vendetta e dichiarava suo nemico chiunque s'attentasse di mettervi ostacolo. La storia non dice che a loro dolesse molto dell'ucciso e nemmeno che una lacrima fosse stata sparsa per lui in tutto il parentado. Dice soltanto che erano tutti smaniosi d'aver nell'unghie l'uccisore, o vivo o morto. Ora questo, vestendo l'abito di cappuccino, accomodava ogni cosa. Faceva, in certa maniera, un'emenda, si imponeva una penitenza, si chiamava implicitamente in colpa, si ritraeva da ogni gara. Era, insomma, un nemico che depon l'armi. I parenti del morto potevano poi anche, se loro piacesse, credere e vantarsi che s'era fatto frate per disperazione e per terrore del loro sdegno. E, ad ogni modo, ridurre un uomo a spropriarsi del suo, a tosarsi la testa, a camminare a piedi nudi, a dormir su un saccone, a vivere d'elemosina, poteva parere una punizione competente anche all'offeso il più borioso. Il padre guardiano si presentò con un'umiltà disinvolta al fratello del morto e, dopo mille proteste di rispetto per l'illustrissima casa e di desiderio di compiacere ad essa in tutto ciò che fosse fattibile, parlò del pentimento di Lodovico e della sua risoluzione, facendo garbatamente sentire che la casa poteva esserne contenta e insinuando poi soavemente e con maniera ancor più destra che, piacesse o non piacesse, la cosa doveva essere. Il fratello diede in ismanie, che il cappuccino lasciò svaporare dicendo di tempo in tempo «è un troppo giusto dolore». Fece intendere che in ogni caso la sua famiglia avrebbe saputo prendersi una soddisfazione e il cappuccino, qualunque cosa ne pensasse, non disse di no. Finalmente richiese, impose come una condizione, che l'uccisor di suo fratello partirebbe subito da quella città. Il guardiano, che aveva già deliberato che questo fosse fatto, disse che si farebbe, lasciando che l'altro credesse, se gli piaceva, esser questo un atto d'ubbidienza, e tutto fu concluso. Contenta la famiglia, che ne usciva con onore, contenti i frati, che salvavano un uomo e i loro privilegi, senza farsi alcun nemico, contenti i dilettanti di cavalleria, che vedevano un affare terminarsi lodevolmente, contento il popolo che vedeva fuor d'impiccio un uomo ben voluto e che nello stesso tempo ammirava una conversione, contento finalmente e più di tutti, in mezzo al dolore, il nostro Lodovico, il quale cominciava una vita d'espiazione e di servizio che potesse, se non riparare, pagare almeno il malfatto e rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso. Il sospetto che la sua risoluzione fosse attribuita alla paura l'afflisse un momento, ma si consolò subito col pensiero che anche quell'ingiusto giudizio sarebbe un castigo per lui e un mezzo di espiazione. Così, a 30 anni, si ravvolse nel sacco e, dovendo secondo l'uso lasciare il suo nome e prenderne un altro, ne scelse uno che gli rammentasse ogni momento ciò che aveva da espiare, e si chiamò Fra Cristoforo. Appena compiuta la cerimonia della vestizione, il guardiano gli intimò che sarebbe andato a fare il suo noviziato 60 miglia lontano e che partirebbe all'indomani. Il novizio si inchinò profondamente e chiese una grazia. «Permettetemi, padre», disse, «che prima di partire da questa città dove ho sparso il sangue d'un uomo, dove lascio una famiglia crudelmente offesa, io la ristori almeno dell'affronto, ch'io mostri almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno col chiedere scusa al fratello dell'ucciso e gli levi, se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall'animo». Al guardiano parve che un tal passo, oltre all'essere buono in sé, servirebbe a riconciliare sempre più la famiglia col convento e andò diviato da quel signor fratello ad esporgli la domanda di Fra Cristoforo. A proposta così inaspettata, colui sentì, insieme con la maraviglia, un ribollimento di sdegno, non però senza qualche compiacenza. Dopo aver pensato un momento, «Venga domani», disse, e assegnò l'ora. Il guardiano tornò a portare al novizio il consenso desiderato. Il gentiluomo pensò subito che quanto più quella soddisfazione fosse solenne e clamorosa, tanto più accrescerebbe il suo credito presso tutta la parentela e presso il pubblico, e sarebbe, per dirla con un'eleganza moderna, una bella pagina nella storia della famiglia. fece avvertire in fretta tutti i parenti che all'indomani, a mezzogiorno, restassero serviti, così si diceva allora, di venir da lui a ricevere una soddisfazione comune. A mezzogiorno il palazzo brulicava di signori d'ogni età e d'ogni sesso. Era un girare, un rimescolarsi di gran cappe, d'alte penne, di durlindane pendenti, un muoversi librato di gorgiere inamidate e crespe, uno strascico intralciato di rabescate zimarre. Le anticamere, il cortile e la strada formicolavan di servitori, di paggi, di bravi e di curiosi. Fra Cristoforo vide quell'apparecchio, ne indovinò il motivo e provò un legger turbamento, ma dopo un istante disse tra sé: «Sta bene, l'ho ucciso in pubblico alla presenza di tanti suoi nemici, quello fu scandalo, questa è riparazione». Così, con gli occhi bassi, col padre compagno al fianco, passò la porta di quella casa, attraversò il cortile, tra una folla che lo squadrava con una curiosità poco cerimoniosa. Salì le scale e di mezzo all'altra folla signorile che fece ala al suo passaggio, seguito da 100 sguardi, giunse alla presenza del padron di casa, il quale, circondato da parenti più prossimi, stava ritto nel mezzo della sala con lo sguardo a terra e il mento in aria, impugnando con la mano sinistra il pomo della spada e stringendo con la destra il bavero della cappa sul petto. C'è talvolta nel volto e nel contegno d'un uomo un'espressione così immediata, si direbbe quasi un'effusione dell'animo interno, che in una folla di spettatori il giudizio sopra quell'animo sarà uno solo. Il volto e il contegno di Fra Cristoforo disser chiaro agli astanti che non s'era fatto frate né veniva a quell'umiliazione per timore umano, e questo cominciò a conciliarglieli tutti. Quando vide l'offeso affrettò il passo, gli si pose in ginocchioni ai piedi, incrociò le mani sul petto e, chinando la testa rasa, disse queste parole: «Io sono l'omicida di suo fratello. Sai Dio se vorrei restituirglielo a costo del mio sangue, ma non potendo altro che farle inefficaci e tarde scuse, la supplico d'accettarle per l'amor di Dio». Tutti gli occhi erano immobili sul novizio e sul personaggio a cui egli parlava. Tutti gli orecchi erano tesi. Quando Fra Cristoforo tacque, s'alzò per tutta la sala un mormorio di pietà e di rispetto. Il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata e d'ira compressa, fu turbato da quelle parole e, chinandosi verso l'inginocchiato: «M'alzatevi», disse con voce alterata. «L'offesa, il fatto veramente, ma l'abito che portate, non solo questo, ma anche per voi. S'alzi, padre. Mio fratello, non lo posso negare, era un cavaliere, era un uomo un po' impetuoso, un po' vivo, ma tutto accade per disposizione di Dio, non se ne parli più. Ma padre, lei non deve stare in codesta positura». E presolo per le braccia lo sollevò. Fra Cristoforo, in piedi ma col capo chino, rispose: «Io posso dunque sperare che lei m'abbia concesso il suo perdono? E se l'ottengo da lei, da chi non devo sperarlo? Oh, se io potessi sentire dalla sua bocca questa parola: perdono». «Perdono?» disse il gentiluomo. «Lei non ne ha più bisogno. Ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io le perdono di cuore». E tutti gridarono a una voce gli astanti. Il volto del frate s'aprì a una gioia riconoscente, sotto la quale traspariva però ancora un'umile e profonda compunzione del male a cui la remissione degli uomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da quell'aspetto e, trasportato dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo e gli diede e ne ricevette il bacio di pace. «Un bravo bene!» scoppiò da tutte le parti della sala. Tutti si mossero e si strinsero intorno al frate. Intanto vennero servitori con gran copia di rinfreschi. Il gentiluomo si riaccostò al nostro Cristoforo, il quale faceva segno di volersi licenziare, e gli disse: «Padre, gradisca qualche cosa, mi dia questa prova d'amicizia». E si mise per servirlo prima d'ogni altro. Ma egli, ritirandosi, con una certa resistenza cordiale, «queste cose», disse, «non fanno più per me, ma non sarà mai ch'io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio. Si degni di farmi portare un pane, perché io possa dire d'aver goduto la sua carità, d'aver mangiato il suo pane e avuto un segno del suo perdono». Il gentiluomo, commosso, ordinò che così si facesse, e venne subito un cameriere in gran gala, portando un pane su un piatto d'argento, e lo presentò al padre, il quale, presolo e ringraziato, lo mise nella sporta. Chiese quindi licenza e, abbracciato di nuovo il padron di casa e tutti quelli che, trovandosi più vicini a lui, poterono impadronirsene un momento, si liberò da essi a fatica, ebbe a combatterne l'anticamere per isbrigarsi da servitori e anche da bravi che gli baciavano il lembo dell'abito, il cordone, il cappuccio, e si trovò nella strada, portato come in trionfo e accompagnato da una folla di popolo fino a una porta della città, donde uscì, cominciando il suo pedestre viaggio, verso il luogo del suo noviziato. Il fratello dell'ucciso e il parentado, che s'erano aspettati d'assaporare in quel giorno la trista gioia dell'orgoglio, si ritrovarono invece ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza. La compagnia si trattenne ancor qualche tempo con una bonarietà e con una cordialità insolita, in ragionamenti ai quali nessuno era preparato andando là. Invece di soddisfazioni prese, di soprusi vendicati, di impegni spuntati, le lodi del novizio, la riconciliazione, la mansuetudine furono i temi della conversazione. E taluno, che per la 50ª volta avrebbe raccontato come il conte Muzio, suo padre, aveva saputo in quella famosa congiuntura far stare a dovere il marchese Stanislao, che era quel rodomonte che ognun sa, parlò invece delle penitenze e della pazienza mirabile di un fra Simone, morto molti anni prima. Partita la compagnia, il padrone, ancor tutto commosso, riandava tra sé con maraviglia ciò che aveva inteso, ciò che egli medesimo aveva detto, e borbottava tra i denti: «Diavolo, don frate, bisogna bene che noi trascriviamo le sue precise parole. Diavolo, d'un frate, se rimaneva lì in ginocchio ancora per qualche momento, quasi quasi gli chiedevo scusa io che m'abbia ammazzato il fratello». La nostra storia nota espressamente che da quel giorno in poi quel signore fu un po' men precipitoso e un po' più alla mano. Fabrizio Gifuni ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.